Buongiorno a tutte e tutti, siete all'ascolto di Mamma Tron con un deciso ritardo e oggi, visto che comunque appunto abbiamo le corrispondenze dalla Palestina, abbiamo deciso di parlare di sud del mondo e abbiamo iniziato con Ismaël Lô, un cantante senegalese che il cui pezzo è stato anche ripreso da Pedro Almodóvar in Tutto su mia madre, no? Sì, e quindi come non cominciare con un cantante appunto del sud del mondo, che se vogliamo può essere anche il nord se rigiriamo la cartina come ci piace a noi. E adesso ci sentiamo Revolución de Actitud María Marta. Articolo primero, se designa al ciudadano Pedro Carmona Estanga, presidente de la República de Venezuela. Pedro Carmona Estanga, en condición de presidente de la República de Venezuela, juro ante Dios Todopoderoso. Suspende de sus cargos a los diputados principales y suplentes. Chávez se rinde. Estamos cansados de tanta mentira y tanta falsedad contra el pueblo venezolano y que nos estén humillando. Estamos cansados. Pido a Dios nosotros vamos para adelante con la revolución. Yo lo único que le digo a los escuálidos, que fracasó el paro. Ayer acá hay, a pesar del luto, hay un ambiente de tranquilidad, de paz, de alegría, sobre todo. Latinoamérica llama como la esclava que clama, reclama, esclava, proclama la lava ardiente, caliente, estaría pidiendo por su libertad. El piso está caliente, preparen al volcán. El parto es inminente como la erupción, a punto de bullicio se siente. Por debajo en el ambiente, el piso al bizarro está caliente. Así que tomen, tomen, desde se ven. Porque bebé que se viene, nadie lo detiene. Tiene años de cubano, pero algún día le lleguen a ser. Lo estábamos esperando, ansiosos por criarlo, verlo crecer, alimentarlo, oírlo. Querrán asesinarlo, vamos a impedirlo. Hay que asumirlo, quieren saber su nombre. Su nombre es visión, quieren saber su nombre es revolución. Quieren saber su nombre es visión. Quieren saber su nombre es revolución. Oh, hijo nuestro, vuestro de ellos, de ustedes y de vosotros. ¿A cuántos has dejado? Dime con los culos rotos. Los dueños de la torta impartiendo las órdenes. No entienden, no comprenden que has nacido otra vez. Pero esta vez no vamos a abandonarte, no vamos a dejar de morir con los errores de nuestros antecesores. Vamos a repetir, los hombres a veces son demasiado débiles. Pues llegan al poder y se convierten en reptiles. Aquí en Venezuela, en Argentina, vengo a decirles que a pesar de no ser totalmente todos, somos miles y miles, miles inútiles. Yo todavía es una palabra que usan para alejarte. Demasiado duro ha sido el parto para abandonarte. Vamos a amamantar hasta que el bebé se pare. Vamos a amarte y respetarte hasta que la muerte nos separe. Quieren saber tu nombre es visión. Quieren saber tu nombre es revolución. Quieren saber tu nombre es visión. Quieren saber tu nombre es revolución. Sí, aquí en Venezuela. Apoyando la revolución, le duela a quien le duela. Fascistas. Muchos se ríen de esto, no entienden el contexto. No perciben en el ambiente el inminente grotesco. Quieren que su imperio eterno eternamente baile. Nunca les he dicho que todos los sólidos también se desvanecen en el aire. ¿Qué van a hacer cuando su imperio caiga? ¿Qué van a hacer cuando nuestra panza se contraiga? El niño llora, no sabe el espero mundo siniestro. Igual quieren hacer, está pateando dentro nuestro. El niño llora, no sabe el mundo que le espera. Igual quieren hacer, me está pateando como fiera. Quieren saber su nombre es misión. Quieren saber tu nombre, hijo, tu nombre es revolución. Quieren saber tu nombre es misión. Quieren saber tu nombre, hijo, tu nombre es revolución. La UnitedFruit.co. Quando squillò la tromba, tutto era pronto sulla terra e Giava divise il mondo tra Coca-Cola Inc., Anaconda, Ford Motors e altre società. La compagnia United Fruit si riservò la parte più succosa, la costa centrale della mia terra, la dolce cintura d'America. Ribattezzò le sue terre Repubbliche Banane e sopra i morti addormentati, sopra gli inquieti eroi che conquistarono la grandezza, la libertà e le bandiere, instaurò l'opera buffa, alienò antichi privilegi, regalò corone di Cesare, sguanò l'invidia e chiamò la dittatura delle mosche. Mosche Truiglio, mosche Tacio, mosche Carias, mosche Martinez, mosche Ubico, mosche umide d'umile sangue e marmellata, mosche ubriache che ronzano sopra le tombe popolari, Mosche da circo, sagge mosche, abili in tirannia. Tra le mosche sanguinarie la fruttivendola sbarca, stipando caffè e frutta, sulle sue navi che scomparvero come vassoi con il tesoro delle nostre terre sommerse. E intanto, negli abissi saturi di zucchero dei porti, si abbattevano indio sepolti. Del vapore del mattino rotolò un corpo, una cosa senza nome, un numero caduto, un grappolo di frutta morta nelle tamaie. Questo era Pablo Neruda con sottofondo l'hip hop di Shadia Mansour. Ma devise, mon exemple, mon symbole, ma direction, ma route, mon emblème, ma logique, ma référence, mon modèle, là où je puise toute mon aspiration, mon énergie, ma foi, ma détermination. Un peuple, une terre qui force l'admiration. Des hommes et des femmes qui n'ont pas peur de dire non, toujours debout. Malgré les exactions, les douleurs, les souffrances, les coups de bâton, toujours debout. Malgré les meurtrissures, jamais à genoux devant la pourriture. Palestine, ton courage est exemplaire, salutaire. Je t'envoie mes prières, Shabbat Palestine. Tu m'impressionnes, Alain Djelik, Nayet Fel Microphone. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Moi, j'ai pas suffisamment de vocabulaire pour te raconter à quoi ressemble l'enfer. De raconter Gaza et son calvaire, à quoi ressemble la vie après un raid militaire. Alors je tiens à mettre les choses au clair. Ma vision n'est pas humanitaire, ma position uniquement solidaire. Je suis toujours partial quand il s'agit de mes frères. Aucune ambiguïté, j'ai clairement choisi mon camp. Instinctivement pour les miens j'ai fait serment. Naturellement du côté de mes parents, du côté de mes ancêtres, du côté de mes enfants. Moi je suis du côté du dominé sans équivoque. Du côté de l'oppressé, du côté du sans-voix, du côté de l'opprimé, du côté du tiers-monde et des peuples martyrisés. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. Je ne suis qu'une conséquence, un résultat. Je ne suis qu'un héritier, on m'a pas donné le choix. On m'a seulement transmis le goût de la liberté, l'insoumission, l'indépendance et la fierté. On m'a transmis la colère, la dignité, l'insurrection, la révolte, la combativité. On m'a transmis la vigilance, la lucidité. On m'a transmis l'algérianité, donc rien à foutre de ton droit international. J'ai pas besoin de tes références occidentales pour savoir qu'Israël n'est qu'une machine coloniale, illicite, illégitime et illégale. Pour savoir que je déteste les nazis de Tsahal, ces acolytes des multinationales, tous ces alliés, ces complices criminels de New York, Buckingham, de Paris ou de Bruxelles. Palestine, ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts, la Palestine. Ma lutte, mon combat, inscrit dans mon code génétique. Huria, Najazeri, la résistance est en moi. Amazir, je le suis, et jusqu'au bout des doigts. tierra guardano passare i treni nelle strade deserte di Tosè. Abbandonate si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. Abbiamo sentito Palestine di Zepp, adesso abbiamo sentito Battiato e Alice cantare i treni di Tosè, una città della Tunisia, che ci rimanda quindi subito alle rivolte che ci sono state in questo periodo e che hanno coinvolto tutto il mondo arabo. Sì, infatti penso che nel momento in cui si abbassano i riflettori, perché la Tunisia sembra non essere più al centro dell'attenzione del mondo occidentale per ovvi motivi, pensiamo comunque sia importante riportare quello che invece è un processo interessante, innovativo, che ha visto comunque la cacciata del dittatore, che chiaramente può essere definito solo, diciamo, il primo passaggio poi di una rivoluzione intesa, diciamo, in senso largo. Un passaggio rivoluzionario che in qualche modo però oggi vede, vede mettere in campo anche del, dei confronti, diciamo, tra la popolazione, quello che evidentemente c'è tra la popolazione, diciamo, in lotta ancora oggi, poiché le voci che poi ci arrivano da quelle terre sono proprio che se n'è andato, diciamo, il dittatore, ma con lui non se ne sono andate le strutture portanti di questo periodo appunto in cui questo personaggio è stato al potere. Allora ciò che invece potrebbe essere interessante, che da indagare, da comprendere sino in fondo, è cosa sta avvenendo adesso. Un conflitto, diciamo, fortemente intergenerazionale, cioè tra diciamo, i vecchi, tra chi evidentemente è abituato a vivere e abitare i territori, a stare su un livello di potere costituito, e chi invece giovani, giovani donne, giovani uomini che in effetti sono scesi in piazza, sono scesi su quelle piazze mettendo in discussione, diciamo, anche in, diciamo, in pericolo fortemente la propria vita per un'idea diversa di paese, un'idea diversa di vita. E quindi quello che evidentemente in questo momento è al centro della, della rivolta, della rivoluzione tunisina, è proprio questo, questo scontro, diciamo, intergenerazionale. E in merito, diciamo, l'esplicazione di questa questione più un esempio fattibile su cui si può evidentemente ragionare più specificamente è la costituzione di questa costituente, questa costituente che in qualche modo da una parte servirebbe a bloccare un processo in evoluzione, un processo di cambiamento, ma dall'altra parte a garantire quella che ad esempio sono per esempio i valori della laicità fortemente indispensabili in quei territori. E su questo quello che si lamenta ascoltando anche delle donne che parlano di questa nuova costituente come processo, diciamo, cosiddetto innovativo, quello che si lamenta è la composizione di questa costituente, cioè di fortemente, diciamo, costituita da persone molto, diciamo, grandi, avanzate di età e soprattutto da diciamo, non so se tutti, però nella maggior parte un alto elevato numero di uomini. Non so proprio se ci sia un'esclusione femminile, però questo è quello che le donne riportano. Quindi io volevo dire questa cosa anche per aprire un dibattito che potrebbe essere interessante, cioè guardare un processo rivoluzionario con attenzione perché chiaramente interroga anche noi qua quanto sia possibile evidentemente una rivoluzione, però quali sono i dati che connotano, quali sono i processi reali che poi connotano questa rivoluzione, chi ne rimane fuori? Allora oggi io penso che sia anche il caso di dire che le donne evidentemente spesso anche in dei processi rivoluzionari che sono avvenuti nel tempo, che oggi vediamo nel sud nella Tunisia, comunque nella zona, diciamo, africana, si tendono, diciamo, vengono escluse da questi processi riportandole in uno spazio privato. Per quanto poi siano presenti nelle piazze, comunque siano parte di quei processi, peraltro, quindi comunque escluse solo nel momento, diciamo, politico, più che in quello, diciamo, di lotta, di conflitto, esatto. Sì, certo. Adesso ci spostiamo in India e ci sentiamo i Beatles con Sexy City, una canzone che appunto è stata composta dopo il loro viaggio in India, dedicata a Maharishi. Sexy City, what have you done? Table. to say that she's the latest and the greatest of them all. Ed ora ritorniamo a parlare di Palestina, invitiamo tutte e tutti a continuare a guardare comunque il sito victogaza.org che segue la Corum che si sta appunto dirigendo adesso verso la striscia di Gaza, e adesso mandiamo una canzone dedicata a Vittorio Arrigoni. بتأسف الوطن من أجل دمك أخي أرقد بسلام ذكرت فينا ما بننساها أخي قد ما يوصفك لساني بكل كلام أخي ما بيوصف معنى كلمة تكون إنسان أخي لحل الرسم الوشم بصدري واكتب المقاومة على كل جدار بعقلي أخي أنت لم تمت أخي عشت بنصي أخي لن تختفي أخي لا يتخلد اسمك في غزتي أخي وصل بسفن حرية مغطى برايت بعودتك مكون من جسد وتزوق طلقات اعداء السلام مكان من دين المجرم اللي تعدى حرمتك احنا بنوعدك وصيتك تكون رسالة حرة ثورة تنتهي بنصر وترجع بلادنا الحرة اخي تجاوز الظالم من المدى ولن ينتهي الظلمة الا بوحدة الشعب بلا برجوع الارض ارضي تناديكم Invitiamo anche a guardare sul sito il video perché c'è la traduzione in inglese e il testo è veramente molto bello. الوداع هو الأبقى بالحق رمز إرادة الشعب احكي فيتوريو زرعت فينا القوة نزع منها الخوف سلب منها الشر زي فيتوريو أخي سلام عليك من كل أخ لديك اكتسبته بغزة احكي فيتوريو احنا إلنا أخي الشرف نذكرك بكل بيت فلسطيني للأبد انت فلسطيني فيك انت فلسطيني وأنا أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم E il 20 giugno scorso a Ramallah è nata Radio Nisa FM, che appunto è una radio gestita da donne, indirizzata alle donne, in cui si fa intrattenimento e informazione tutta al femminile. Questa radio tenta di andare oltre l'immagine stereotipata della donna palestinese, cercando di dar voce a un numero sempre maggiore di donne perché esprimono loro stesse attraverso storie e riflessioni. È anche, diciamo, un mezzo per unire le donne al di là degli impedimenti fisici, e quindi creare dei ponti di comunicazione tra donne separate da muri e checkpoint, anche perché la società palestinese femminile è un mosaico diversificato e frammentato, e con questa radio appunto si vuole entrare nelle case delle donne che vivono nelle aree urbane e anche in quelle rurali, sia della Cisgiordania che di Gaza. E questa radio serve appunto all'intenzione di creare un confronto fra le donne e di far condividere le loro esperienze. Quindi è un buon progetto, anche perché vogliono introdurre dei corsi di tecniche di giornalismo e radiogiornalismo affinché le donne partecipino all'informazione e alla comunicazione. Questa radio si può anche sentire via web, e adesso noi ci ascoltiamo Punk Islam dei CCCCP. بتصير مستقل وبتفوت انتحاري. ما تخلي حدا ياخد عنك اي قرار، خد قرار موعد البيضه يساعدك فايت فيك استثمار وهو بيقرر يالا شو يالا دولار فخذ القرار ما تكونش حمار هذا المثل يا مصار امسي تجاري يا مطار ولا مش قصدي من المطار فاحسن لك ضل بعيد عن هالاضرار واستقررت تصير نجم انا حكون الشمس اقرب للناس وانت قفص مكتوب عليه ممنوع اللمس عندك الحريه لتقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرن وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار. Questi sono Ramal Underground. لانه اذا باخذ هذا القرار كل حياتي ماشي على التالي بتصير اثار انا اللي بقدر وما حد بقرر عني ما بتقول لي كيف اكتب كلماتي وما بتقول لي كيف اغني اخذ قرار طب ودع التاني في هالحياه ما حد بعطيك فرصه تانيه قدرات يمين شمال شمال يمين بكل القرارات صرنا معميين فيش اشي مأكل ممكن كل حياتك تدي بثانيه زي السيجاره اللي تاكل خذ قرار واعرف انك هلا عم تلعب قمار عم تلعب في النار ممكن تصير حياتك اخت من يبكي او ممكن تصير ضمان وبعد ما تصير ما تقول يا ريت ما صار ما تقول يا ريت ما تقول يا ريت ما صار يا ريت ما صار عندك الحريه لتقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرر وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار عندك الحريه لتقرر فما تحاول تقرر اذا مش متحمل ما تتردد تعطي مايكروفون وتمرر وكل شي قدامك عندك اكتر من خيار فانت اعمل القرار ما تقوليش يلي صار صار كل شي له سبب وانت خد قرار انهيار كتير عصبي وانت بتستكشف. Quindi per chi non... parliamo della striscia di Gaza, che è una piccola zona lungo la costa del Mediterraneo tra l'Egitto ed Israele, lunga 40 km e larga 10, in cui vivono più di 1,4 milioni di palestinesi. Questi confini furono stabiliti nel 48 dopo la creazione dello Stato di Israele e da allora fino al 67 fu occupata dall'Egitto. E poi passa sotto il controllo israeliano e ricordiamo che il 15 agosto del 2005 inizia nella striscia l'operazione Mano Tesa ai Fratelli, che tende appunto allo sgombero dei colani israeliani insediatisi nella striscia e di alcune colonie in Cisgiordania. Il 12 settembre dello stesso anno il territorio della striscia di Gaza passa in mano palestinese e così gli abitanti ebbero accesso anche alle aree che erano state precedentemente loro vietate. E anche se questo accordo prevedeva il ritiro dell'esercito israeliano, in realtà Israele non ha mai smesso di controllare i confini, lo spazio aereo e il mare. L'area non è riconosciuta internazionalmente come uno stato sovrano, ma è reclamata dall'autorità palestinese come parte dei territori palestinesi. E dalla battaglia di Gaza del 2007 il governo de facto della striscia è nelle mani dell'organizzazione islamica palestinese di Hamas. Come sappiamo nel territorio vi è una barriera di metallo che può essere anche definita come il muro dell'apartheid, che è stato costruito dagli israeliani per dividere appunto Israele dalla striscia in tutto il suo perimetro. E vi sono delle zone tampone di oltre 800 per altri 800 metri dalla parte della striscia che sono sempre controllate dall'esercito israeliano e per accedere alla striscia ci sono solo due valichi, uno a sud che è quello di Rafah che è gestito dagli egiziani ed è uso esclusivo dei palestinesi e uno a nord ad Erez, quindi al confine con Israele che è gestito dall'esercito ed è quasi di uso esclusivo dei internazionali. Sul primo valico il governo israeliano effettua comunque dei controlli tramite videosorveglianza ma non può effettuare fermi di persone, anche perché questo valico è destinato al transito di pedoni e alle esportazioni ma non sono concesse le importazioni. قوات حرب رواد حرب مرهم صرنا ولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون معيون اللي دايما معمية من التفرج عاطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة قواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم مدين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة عملنا بلطف ومش بعصف للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بيدينا جربنا نخدها فمدنا وكل اللي طلبناه كان نفس واللي ضحينا عشانه برضه كان نفس انت قولي ليش اطفال العالم حرة وانا مالي انا مالي حرية وين ما رحت اشوف حدود سجن الانساني ليه اطفال العالم حرة وانا مالي حرية وين ما رحت اشعر كبير وانا بنشا موت اجرب وانا لساتي شايف الاحتلال مادد ايده مش للسلام مش مساواة بل تيديني حبل مش لقاه كمان مش ظلام وجدار اللي فاصل بيني وبين اهلي ما بخليني اشوف ضوء السما ام الواحد وخمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأثرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة هي احنا حتى الشوش العالم كلها ما تقدر على الحرية causing screams that never reach your ear holes. America inflicted a million ground zeros. So, we must ask ourselves, what is the dictionary definition of terrorism? The systematic use of terror, especially as a means. Abbiamo sentito I Don't Have Freedom by Them, che è una canzone appunto hip hop palestinese. Continuiamo con Low Key. In my hand, terror is violent or destructive acts such as bombing committed by groups in order to intimidate a population or government into granting their demands. So what's a terrorist? They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge. Seems like the ragheads and packies are worrying your dad, but your dad's favorite food is curry and kebab. It's funny but it's sad how they make your mommy hurry with her bags, rather read the sun than study all the facts. Tell me, what's the bigger threat to human society? BAE systems or homemade IEDs, remote controlled drones killing off human lives, or man with homemade bomb committing suicide? I know you were terrified when you saw the towers fall. It's all terror, but some forms are more powerful. It seems nuts, how could there be such agony when more Israelis die from peanut allergies? It's like the definition didn't ever exist. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler. They're telling fibs, now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. When they put it on me, I tell them this, I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist. Insulting my intelligence, oh how these people judge. Lumumba was democracy, Mossadegh was democracy, Allende was democracy. Hypocrisy, it bothers me. Call you terrorists if you don't wanna be a colony. Refuse to bow down to a policy of robbery. It's terrorism, my lyrics. When more Vietnam vets kill themselves after the war than died in it, this is very basic. One nation in the world. Dal giugno 2006 praticamente tutti i valichi di Gaza sono chiusi. E da qui nasce la necessità per cui è nato il convoglio umanitario che insomma è partito in questo momento e con cui saremo in collegamento tutto il giorno. I guess it's all just dependent who your nemesis is. Irrelevant how eloquent the rhetoric peddler is. telling fibs. Now tell us who the terrorist is. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist is. When they put it on me, I tell them this. I'm all about peace and love. They're calling me a terrorist, like they don't know who the terrorist is. Insulting my intelligence. Oh, how these people judge. Diego Garcia was terrorism. I unconscious, the conscious with terrorism. Phosphorus that burns hands, that is terrorism. Erdogan and Stern gang, that was terrorism. What they did in Hiroshima was terrorism. What they did in Fallujah was terrorism. Mandela, ANC, that was terrorism. Jerry Adams, IRA, that was terrorism. Eric Prince, Blackwater was terrorism. Oklahoma, McVeigh, that was terrorism. Every day USA, that is terrorism. Every day UK, that is terrorism. Every day. Ahmed. Infidel. So you're a terrorist? Yes, I am a terrorist. What kind of terrorist? A terrifying terrorist. Silence! I kill you! Questo già prodetto l'invasione dell'idiozia. Sei sotto attacco, sotto, sotto attacco. Sei sotto attacco dell'idiozia. Sei sotto attacco, sotto, sotto attacco. Sei sotto attacco dell'idiozia. Sei sotto attacco, sotto, sotto attacco. Oh, no. Sei sotto attacco dell'idiozia. Sei sotto attacco, sotto, sotto attacco. L'idiozia, l'idiozia sono detenuti, è come a dire che cerca di ingoiarti, diminui, fatti scomparire, oppure, oppure dentro gli adorati, fatti sentire diverso, oh no! Fatti sentire diverso da quello che sei, fatti sentire diverso, oh no! Fatti sentire diverso da quello che sei. Sono dei deglutire, come a dire che cerca di ingoiarti, diminui, fatti scomparire, oppure tenta di adorarti. Fatti sentire diverso, aglio, fatti sentire diverso da quello che sei. Fatti sentire diverso, aglio, fatti sentire diverso da quello che sei. Fino al repetito totalmente diverso. Finito è brutto, niente più bello. Si deve fare solo pulizia. È in atto l'attacco dell'idiozia. E l'attacco sta venendo detto proprio in questo momento. Un reggimento di intrattenitori, ricchi, mediocri, dozzinali dai giornali. E visto che ci siamo sentite un sacco di hip hop oggi, ricordo l'iniziativa sabato 14 maggio, quindi questo sabato dalle 10 alle 21 presso la via Giovanni Cussone a Centocelle, Graffiti Jam, giù le mani dal writing, perché non permetteremo a personaggi ambigui di veicolare aberranti contenuti attraverso il writing, che comunque è una ripresa degli spazi urbani, che comunque appunto è sempre stata in qualche modo slegata dal potere e che andava contro di esso. e dichiara insomma di non che non riusciranno ad appropriarsi delle strade che sono da anni di gente che se le sente le fa vivere. Riprendiamoci le strade sono nostre, giù le mani dal writing. Fascista e polizia, figli della stessa mamma della tua idiozia. Eroina, fascista e polizia, figli della stessa mamma della tua idiozia. Idiota, da quando sei nato la tua vita è pilotata da gente di merda che ti fa essere idiota. Vespa, Fede e Montanelli ogni giorno abbabbiata. Lui ornare da nata fino a che si schiatta. Da questa mamma con la faccia sto sorriso. Idiota, da quando sei nato la tua vita è pilotata da gente di merda che ti fa essere idiota. Vespa, Fede e Montanelli ogni giorno abbabbiata. Lui ornare da nata fino a che si schiatta. Da questa mamma con la faccia sto sorriso. Idiota, idiota, idiota, idiota, idiota, idiota. L'idiozia sono uno dei degluti, che come a dire che cerca di coiarti, diminui, ma mi scoparire, oppure del tagliato l'anni, fatti sentire diverso, fatti sentire diverso da quello che sei, fatti sentire diverso, fatti sentire diverso da quello che sei, arrepenti totalmente di lei. E visto che questa canzone è sotto attacco dell'idiozia e cita eroina, fascisti e polizia, figli della stessa mamma della tua idiozia, vogliamo ricordare che oggi è il 12 maggio, il giorno in cui è stata uccisa proprio dalla polizia in una manifestazione Giorgiana Masi, e che verrà ricordata oggi a Ponte Garibaldi. Di oggi alle 17 a Ponte Garibaldi per ricordare Giorgiana Masi, che appunto è stata uccisa dallo Stato durante questa manifestazione in cui era l'anniversario della vittoria referendaria sul divorzio. Ci ricordiamo che il ministro degli interni all'epoca era Francesco Cossiga e c'era uno schieramento di migliaia di poliziotti e carabinieri in assalto di guerra, e appunto Giorgiana è stata ammazzata in questa occasione. E quindi venite tutti alle 17 a Ponte Garibaldi. Di casa e ci sto dentro, la mia città grande quanto grande il mondo, a volte mi ci perdo, non la conosco fino in fondo, eppure so quanto Roma capo